Ringrazio il presentatore di questa sua gentile espressione di benvenuto, ma Trento, Rovereto, questi luoghi per i patiti di Rosmini sono un'occasione proprio perché ricambino subito il ringraziamento e perché si dichiarino particolarmente compenetrati di una circostanza che li risolleva con la mente all'attaccamento di Rosmini per questa sua terra. Stamattina proprio in Duomo ripensavo come Rosmini non abbia mai ricordato i decreti del Concilio di Trento senza una sottolineatura, senza una vibrazione spirituale particolare, come di un delizioso campanilismo segreto. Proprio alla sua radice, in questi luoghi, evidentemente, egli attribuiva quella stessa intensità, vorrei dire, di umori con cui in una più ampia, diciamo, esperienza e in un più ampio giudizio sulle nazionalità amava sentirsi profondamente come rari spiriti del nostro Ottocento italiano, così come si diceva italiano in rapporto alla grande avventura dell'incivilimento di cui l'Italia era stata protagonista, amava dirsi trentino in vista e in ragione del suo rapporto con gli altri italiani. Vorrei fare qualche piccola chiosa, solo perché qui in fondo il discorso è un continuum e non ammette cesure, alle splendide relazioni della mattinata, dicendo che quando ascoltavo con la meritata attenzione il primo relatore, con quella particolare esaltazione della corporeità, quel riferimento a San Paolo, eccetera, mi veniva in mente un paradosso di Lichtenberg, il grande moralista tedesco che Nietzsche aveva eletto a maestro. E non solo Nietzsche, Jean Paul in particolare, anche Goethe attingeva largamente a lui, il quale così, con questo suo gusto veramente straordinario del bon mot, definisce il matrimonio. Dice: dopo che mi sono sposato, mi sono sentito un animale a quattro zampe. Questa è la battuta di Lichtenberg per quel che vale, ma che è molto importante perché prelude a tutto il discorso sulla genitalità che sarà fatto da Schopenhauer e che sarà proseguito in qualche modo da Nietzsche, con quella particolare, direi, negazione, quel deprezzamento che in Schopenhauer la genitalità subisce. E mi riferisco a questo per dire sommariamente come tutta la filosofia di Schopenhauer della genitalità sia stata raccolta nella grande operazione che più tardi sarà compiuta da Freud, La libido viene da una certa idea della genitalità, sulla quale non posso qui soffermarmi. Certo, noi abbiamo sentito più volte a Stresa la citazione di quella frase di Gabriel Marcel: «Io sono il mio corpo», che mi pare una di quelle classiche frasi che il professor Del Noce, il filosofo Del Noce, chiama frasi a punta, e non so se l'espressione sia proprio sua. Così non so come la frase di Feuerbach: «Io sono il mio apparato digerente». E naturalmente questa frase qui viene da un filosofo che non trova altra frase, qui lo dico con la PH iniziale, per definire la persona, se non dichiararla una sursum atio, con un termine di San Bonaventura, che naturalmente a noi, che sulla nozione di persona, su questo vero capo horn della filosofia cattolica abbiamo impiegato, vorrei dire, tutti i nostri anni, non più verdi, ci lascia estremamente perplessi, che vuol dire sursumatio. Chi dice che la persona è sursumatio può anche dire, tanto la cosa può scorrere senza lasciar traccia, io sono il mio corpo. Comunque, a me pare che questo privilegio della corporeità, giusto come ha precisato Ambrosetti in Rosmini, sia di difficile, ecco, di difficile documentazione testuale. Si può interpretare, ma la documentazione di... anche perché in Rosmini c'è un testo e soprattutto una nozione infinitamente più conferente, e che ho sentito ricorrere nella relazione anche del professor Prenna, cioè quello di natura. Natura. L'unione è della natura, con la natura. La bipolarità, se di bipolarità si tratta, è tra persona e natura. E su questo naturalmente non posso indugiare, perché troppo nobis longa in stat via. Troppo lunga è la via che a me, per i riflessi sociali, aspetti sociali e politici, ringrazio gli organizzatori di non avermi scritto socio. Socio economici. Io dico che quando non posso acquistare qualche cosa, la colpa è sempre del socio economico. Dunque, un'altra cosa volevo solo premettere, questa per il prossimo relatore, che poi il discorso sul matrimonio in Rosmini, ho l'impressione che nonostante che Rosmini vi abbia dedicato certamente le solite 500 rotte pagine, è incompleto, perché Rosmini da qualche parte si rammarica di non avere potuto scrivere un'opera intitolata Il diritto soprannaturale. Proprio nell'antropologia soprannaturale in più occasioni ricorre una sua, diciamo così, curiosa e strana previsione che avrebbe dovuto trattare anche del diritto soprannaturale. E quindi mi pare che quella sarebbe stata la sede più propizia per riorganizzare tutto il discorso sul matrimonio e ripresentarlo in una luce diversa, tanto più. E questa è una segnalazione di cui Prenna non ha certamente bisogno dal punto di vista testuale, ma da un altro punto di vista forse sì, che mi pare da Rosmini applicata con estremo interesse al matrimonio una distinzione sottilissima tra moralità di forma e moralità di oggetto, che si trova nel commento al Vangelo Giovanneo, e dove dice che sostanzialmente tutta la materia regolata in relazione a impulsi sensibili si può considerare appunto formalizzata soltanto in grado incipiente, moralità di forma, mentre la moralità di oggetto è invece la materia che ha, non ha più, per così dire, il suo riferimento a contenuti sensibili o a contenuti di esperienza. Aspetti sociali e politici del matrimonio in Rosmini. Rosmini ha espresso le sue previsioni sull'incivilimento delle nazioni europee nel clima euforico del romantisme politique, come diceva stamane anche Ambrosetti, aggiungendo che in lui si conciliano perfettamente o imperfettamente, non lo sappiamo, questi due grandi movimenti, l'illuminismo e il romanticismo. Verità, giustizia e religione cospirano al progresso della società come nessun altro potere e nessun'altra forma di potere sociale. Dove è fallito Napoleone nell'assumersi cioè il ruolo di arca dell'alleanza testuale, di mediatore sommo e invitto tra l'ancien régime e la Révolution, non fallirà un principio più generale che Rosmini, per brevità, anziché verità, giustizia e cattolicesimo, chiamerà giustizia tout court. Napoleone fallisce, a giudizio di Rosmini, perché né la forza né la gloria militare possono più giungere al cuore di una società rivoluzionaria che, appunto, per avere esercitato miracolosamente, anche se per un momento, le armi della ragione, non può più essere amministrata dalla ragione delle armi. L'intervento tra i due secoli, l'un contro l'altro armato, di Napoleone attenua, secondo Rosmini, il contrasto, la scissione provocata dalla dichiarazione degli immortali principi tra l'elemento familiare e l'elemento sociale. Più che di contrasto o di scissione, si tratta anzi di guerra scatenata. Rosmini descrive con linguaggio vitiano questa guerra degli elementi. La dichiarazione del 789 abolisce con un tratto di penna tutto il diritto familiare, dice Rosmini, segnatamente per quella parte, ma non per questa sola, per cui esso è diritto signorile. La critica di Rosmini prende vigore decisivo nella denuncia dell'assolutismo sociale, cioè in buona sostanza del giacobinismo, come piacerebbe dire a Vittorio Maria. Qual è il proprium del giacobinismo? E l'assolutizzazione non tanto del sociale quanto del politico, per adottare provvisoriamente una terminologia oggi corrente. L'assolutizzazione del politico degrada il sociale a semplice retroterra dello Stato, a semplice riserva o cava, donde nell'immediato lo Stato attinge uomini e mezzi. La famiglia si rivela il sociale per eccellenza, il sociale in tale senso preistorico, una volta assolutizzato il politico. La famiglia è il nido in cui la natura produce l'uomo come materia prima, all'incirca nello stesso modo in cui l'ape produce il miele o la quercia produce la ghiandola. La grande politica, come sarà concepita da Nietzsche, anche guardando retrospettivamente a Napoleone, passerà sulla testa delle famiglie e delle società minori, dove per minore è da intendere inferiore. Nietzsche scriveva: se non siamo folli abbastanza da fare l'Europa attraverso l'accordo pacifico di tutti, questa unificazione ci sarà imposta dalla via imperiale, quella di Napoleone, che almeno ha avuto il merito di concepire l'Europa come un complesso politico. E sulla imminente planetarizzazione della scala dei valori politici, con particolare riferimento alla potenza russa, Nietzsche, come è noto, lanciava sguardi profetici. L'assolutizzazione del politico ha potuto contare sulle grandi premesse dottrinarie della Realpolitik. La planetarizzazione o mondializzazione della politica è avvenuta sotto il segno della Realpolitik. Verità, giustizia, religione, questi idoli del romantismo politico e di Rosmini, sono state seppellite dalla Realpolitik come reliquie fossili sotto un manto di lava. Il giacobino Saint Just traccia con la sua oratoria questa tragica genealogia della libertà. Noi abbiamo posto la spada alla spada e la libertà è nata, è uscita dal seno delle tempeste. La sua origine è comune a quella del mondo, uscito dal caos e a quella dell'uomo che piange nascendo. Ebbene, questa oratoria risveglia in Hegel, come è noto, un tumulto di pensieri. Fin dall'epoca del suo sodalizio con Herderlin a Tubinga, egli avverte ed insieme argomenta speculativamente che la tragedia è la sostanza della politica. Certezza che lo accompagnerà per tutta la vita. Nella filosofia della storia Hegel scrive: quando una volta Napoleone si intrattenne con Goethe sulla natura della tragedia, espresse l'opinione che la tragedia moderna si differenziava dall'antica essenzialmente in questo, che non c'era più il fato sotto il quale soccombevano gli uomini, e che la politica aveva preso il posto dell'antico destino. Si doveva dunque nella tragedia, e ancora Hegel, servirsi della politica come destino moderno, potenza irresistibile delle circostanze, alla quale l'individualità deve piegarsi. Perché con Napoleone e nella stessa visione di Napoleone la sostanza della politica è la tragedia. Perché l'azione storica rifiuta per definizione ogni fuga, cito da Hegel, fuori dal regno della temporalità. Ecco la risposta. L'unità di tempo, di luogo e d'azione torna in auge. Solo perché vivono nello stesso tempo e nello stesso luogo gli eroi tragici, fratelli nemici come Teocle e Polinice, debbono necessariamente incontrarsi, sfidarsi, lottare a morte, tra virgolette, annientarsi. Molteplici alla vita forze tremende, eppure più dell'uomo nulla, vedi, è tremendo. Il Deinon, il tremendum. Antigone celebra la legge non scritta, che fonda ogni stato sull'eguaglianza che la morte determina. Creonte, non meno pio, giudica che questa eguaglianza vale sotto la terra e non sopra, e che i due fratelli sono giustamente periti perché la volevano assoluta nel mondo. L'esempio dei due fratelli deve istituire il rispetto per l'ordine politico, come per Hegel il ricordo del terrore giacobino giustifica razionalmente l'ordine napoleonico. Rosmini sgonfia, come abbiamo visto, il mito napoleonico. Sulla grandezza sacro-profana giacobino-restauratoria di Napoleone, Rosmini ha giudizi più profondi di quelli così suggestivi di Hegel. Per Rosmini, in politica, il fatto non è annunciato dai bollettini di guerra di un generale imperatore. L'ultima parola non è il rombo del cannone. Chi dice sostanza tragica della politica ed evoca sullo sfondo il tragico spettacolo del mare di sangue contemplato ad Austerlitz dall'imperatore, con la glaciale impassibilità raccontata da Tolstoi, è sicuramente un figlio del secolo. Hegel, rispetto a Rosmini, è proprio un enfant du siècle. Naturalmente, così come Hegel è andato col suo secolo, così come si è conciliato col secolo, il secolo è andato con lui. L'assolutizzazione del politico non è un'operazione filosofica neutra, per dir così, una semplice architettura teorica. Napoleone appare in una luce in cui è già pensiero, è già filosofia, già processo razionale di svolgimento storico la realtà del suo apparire. Egli è la vivente genealogia dello Stato moderno. Nella durata, nel destino stesso dello Stato moderno, la cellula napoleonica diventa corpo titanico, virgolette, risveglio della natura titanica, per dirla con Platone. Farsi mondo della filosofia non è il farsi mondo di un sistema, questo o quel sistema, è il farsi mondo del mondo, il farsi storia della storia, che si fanno in ragione di una necessità che è anche libertà e volontà, di una oggettività che è anche soggettività suprema, plastica, come dice appunto Hegel, sempre sotto il fascino di Napoleone. Chi crea il mondo? Per quel che se ne può dire, lo storicista è tenuto a rispondere. L'ho visto nascere sotto i miei occhi, da quel tale individuo plastico, tra virgolette. Non c'è altra nozione del creare che non ricada nella creatività storica, perfettamente circolare tra oggetto creato e soggetto creante, perché in fondo si tratta di un Napoleone che crea se stesso, figlio, come egli amava dire, figlio delle proprie opere. Tolta a Napoleone l'individualità plastica, pur sempre limitata e caduca, per quanto si rivelino in essa i tratti del pascaliano grand individu, resta in piedi, come sua vera immagine, lo Stato, Dio nel mondo, con trattini di congiunzione. Ed in questa conclusione l'anima filistea dello storicismo mostra tutte le sue rughe. L'assolutizzazione del politico si chiude nella mediocrità penosa, più che tragica, dello spettacolo da operetta, come dice Karl Kraus, di ogni dittatura cesaristica, di ogni tirannide novecentesca. Vorrei inserire a questo punto, più tardi potrò anche riprenderlo con qualche aggiunta, un noto calambur di Delumont. Il Dio dei cristiani è oggi molto meno morto di quanto si dice, anzi, vero calambur è il seguente: il Dio dei cristiani, dove c'è proprio tutto la fière pensée di questo autore, era un tempo molto meno vivo di quanto si credesse ed è oggi molto meno morto di quanto si dice. Morto senza pietà, morto senza possibile resurrezione, invece lo Stato Dio nel mondo. Ed è dinanzi alla composizione della sua ingens molles, anzi della sua indigesta molles, che l'appello rosminiano alla giustizia perde la sua apparente retoricità. Cosa vuol dire più in concreto giustizia? Detto da Rosmini, in opposizione all'arma teorica di Napoleone, che secondo lui è l'utilitarismo, e dall'arma politica di Napoleone, che sempre secondo lui è il cesarismo. Giustizia vuol dire niente di più e niente di meno che forma morale dell'essere. Risposta originalissima, frutto di una critica radicale ad ogni precettismo, ad ogni sensismo, ad ogni soggettivismo, nella loro confluenza verso le grandi avventure romantiche e post-romantiche della politica come destino. Bisogna sempre aguzzare l'udito dinanzi ai filosofi ineloquenti, che non alzano mai la voce, che rifuggono dalle suggestioni dell'oracolo. Forma morale dell'essere è una nozione, vorremmo dire, una notizia così aliena da ogni oracolarità, così geometrica, nel più puro e più alto senso platonico. L'essere in una delle sue forme categoriche si annuncia e si consuma come giustizia, cade o più precisamente arretra la millenaria visione virtuistica della giustizia che risale alle fonti stesse pelasgiche della antichissima Italorum Sapientia. La giustizia come virtù, il diritto come carità del sapiente, secondo la tarda definizione leibniziana, perdono il loro congegno psicologico, anzi più propriamente il loro addottrinamento psicologistico. Le cose sono come l'uomo, come sono, e l'uomo ente tra gli enti non può alterarne né il segno né il disegno. Le cose, in quanto sono vere, e in quanto sono come debbono essere, sono giuste. Il dover essere, la giustizia è, se è lecito dir per metafora, due volte essere, con un'affermazione di stampo, anzi di stile rigorosamente rosminiano, che spinge agli antipodi, cantismo e neocantismo, di ogni fondazione meramente pratica dell'abolizione morale, grazie alla quale fondazione Kant ci dice che tanto c'è da dover volere quanto si vuole e tanto c'è da voler volere quanto si vuole. Sappiamo la fortuna del volontarismo ottocentesco, che ha le sue fonti nella critica della ragion pratica e nella consegna espressa con la massima «velle non discitur». Ebbene, questa finirà col rivelarsi una consegna nichilistica. Velle non discitur è la premessa del mondo come volontà e quindi del mondo come non volontà, di un mondo senza altra alternativa che il nulla, di un nulla senza altra alternativa che nulla. Le due valve da cui Schopenhauer scappa prima che si chiudano si vendicano della fuga di Schopenhauer stringendo nella loro morsa mortale Federico Nietzsche. Il dover essere, la giustizia, è essere. La volontà è essere. Rosmini ha l'animo per reggere da solo con argomenti che gli deriva dalla tradizione non meno che dalla sua incomparabile genialità, la violentissima forza d'urto del nichilismo moderno e contemporaneo. Per adoperare una terminologia che ha il solo pregio, opinabilissimo pregio, della sua convenienza dialettica, all'assolutizzazione del politico, praticata dalle filosofie mondane nichiliste, Rosmini oppone, e sono lieto di riallacciarmi ad una delle tesi centrali della relazione di Ambrosetti, la metafisicizzazione del politico. In tutto simmetrica alla già illustrata, sia pure a tratti, metafisicizzazione della giustizia. L'uomo dello storicismo si assolutizza assolutizzando lo Stato. Rosmini, inascoltato, lo dissuade per tempo, annunciandogli che si imbarca in un'avventura pericolosa, predicendogli che dopo breve e tempestosa navigazione farà naufragio. Tutti ricordiamo queste sue parole, in un oscuro e sozzo pelago. Buon per l'avventuriero che non si inabissi, che non scompaia tra i flutti, che non muoia con lo Stato, quello Stato Dio che gli muore addosso. La sopravvivenza dell'uomo dopo la catastrofe, il misero fardello di disillusioni con cui sopravvive, avrebbero consentito alla mente lucidissima di Capograssi di fare i conti da lui stesso troppo a lungo rimandati. con una filosofia della persona come quella di Rossini. La differenza tra assolutizzare il politico e metafisicizzarlo si può rendere all'incirca così. L'uomo natura, diventando figlio della storia, diventa tutto ciò che può diventare. Consuma tutto il suo destino, che è sì tragico, ma che è anche la sola epifania del divino nel mondo. In conclusione, l'uomo natura è sacrificato al suo contrario. Lo Stato, cioè, raccoglie in sintesi tutte le negazioni realizzatrici, o più propriamente divinizzatrici dell'uomo natura. L'uomo storico non è mai stato altro e non è mai altro che se stesso, il suo processo. Ma basta questo per staccarlo da qualsiasi immagine riconoscibile, immagine data. Basta questo per farne un dio di carta, come avrebbe detto acutamente Björk. Un fantoccio cui lo Stato assegna ogni giorno non tanto una posizione, quanto una dignità, sempre precaria e diversa, sempre subalterna e strumentale. All'uomo figlio della storia e mancipio della res pubblica, Rosmini restituisce una dignità originaria, inderivabile da qualsiasi processo che non sia metafisico, proprio nel senso in cui ogni processo è immanente all'essere e l'essere è immanente a ogni processo. Non lo Stato deve dire chi è l'uomo. Meno ancora fare che sia quello che è. Ora, non c'è dubbio che questa inversione di rotta di Rosmini, questo suo apparente rifugio nel porto quieto della metafisica, nasconde, proprio nel senso che lo mimetizza, tanto è difficile vederlo, nasconde un successo strepitoso. Il postmoderno, sempre per usare una certa terminologia, grazie a Rosmini, grazie al suo intervento tempestivo, ossia in epoca non sospetta, nell'agone stesso della filosofia moderna, perde nettamente ogni contatto col non cristiano. Si sottrae interamente al contagio da parte del non cristiano. La critica kantiana non aveva lasciato scampo. Il disincanto del mondo nel senso di Max Weber comincia con essa. La rivoluzione copernicana prende di mira le stesse teste contro cui si scatena la rivoluzione giacobina. Nessun grande filosofo moderno ha creduto di poter arrestare, tranne che con la poesia, con la mitopoiesi, questo processo così fatale verso il disincanto del mondo. Rosmini lo ha letteralmente rovesciato. Si deve alla sua opera di pensiero se il cristianesimo è ancora non filosofia moderno, mondo moderno, ma novità senza modernità, novità filosofica senza le acrisie dell'aufhebung, dei trapassi a catena e delle genealogie da calendario. Per quel che più specificamente ci riguarda, la metafisicizzazione del politico contiene la più clamorosa svolta filosofica cui un pensatore dell'Ottocento, se Rosmini lo è, potesse applicarsi. Egli degrada il politico, come piace dire ai nuovi filosofi, senza nessuna astuzia e senza nessuna violenza, facendo per di più giustizia di ogni velleità restauratoria. Il ressentiment, di cui grondano tutti gli scrittori della Restaurazione, e che denunciato da Nietzsche diventa l'arsenale della sua polemica anticristiana, non turba l'equilibrio perfetto della concezione rosminiana del politico, ossia della fondazione rosminiana del politico. Fondazione tanto facile da dire quanto difficile da intendere. Da millenni si ripete ubi societas ibius, con un detto sempre arricchito da rinnovate conferme della sapienza latina. Certo, questa frase è ancora vera, più che mai vera per Hegel. Diventa addirittura ossessiva nei suoi epigoni e nei suoi stessi avversari di parte positivistica. Ebbene, Rosmini detta l'equazione più sorprendente, non tra diritto e società, bensì tra diritto e persona. Ubi persona, ibius. Facile da dire, difficile da intendere. Però accettabile o no che risulti la classica consustanzialità tra diritto e persona proclamata da Rosmini, e che a nostro modesto parere segna in filosofia del diritto uno dei suoi transiti millenari, tra i suoi corollari più massicci ecco profilarsi netta la degradazione del politico, come si diceva più sopra, cioè in buona sostanza la sua, cito tra virgolette, de-divinizzazione da un lato e la sua disideologizzazione dall'altro. La società civile, società necessaria, è la meno necessaria delle società necessarie. È già tanto che sia necessaria, ma i passi decisivi verso l'incivilimento l'uomo li compie non come cittadino, ma iniziandosi al culto interiore di Eros, Thanatos e Dike, che sono poi, come diceva Solone, l'invisibile misura di tutte le cose. La dottrina delle tre società necessarie, la religiosa, la familiare e la civile, all'apparenza non presenta una grande originalità. Rosmini ha fatto di tutto per smorzare le luci troppo sgargianti. Non ama lo stile oratorio, non somiglia e non vuol somigliare a un grande scrittore come Rousseau. Confida tutta l'efficacia dell'opera sua alla fredda radiazione stellare delle idee, il raggio delle quali giunge e non giunge ancora fino a noi, fino al nu collettivo. Il nostro, cito Don Bessero, non è un secolo di principi ma di conseguenze. La scienza è sempre applicativa. Ecco perché Heidegger può dire: la scienza non pensa. E sarebbe poco male, perché il calcolatore soccorre. Ma oltre a non pensare, passi la battuta, non fa pensare. Alle prese col pensiero rosminiano può succedere anche a un genio come Capograssi di avvertire subito diffidenza verso il sistema. Una prova di perfetta organizzazione, come diceva stamani Ambrosetti, del sapere filosofico si rende sospetta. Potrebbe nascondere un pericoloso cedimento alle sfide sistemiche. Osservazione che dinanzi a Rosmini sembra più che legittima, se è vero, come appare da qualche segno, che egli è l'ultimo grande scolastico. Così è stato chiamato. La fredda radiazione stellare delle sue idee dipenderebbe anche, dunque, dall'atmosfera nebbiosa, per non dire plumbea, di sospetto contro tutte quelle verità messe insieme, filate insieme a tappeto, per un centinaio di libri con i quali il prete roveretano sembra essersi cavato il gusto di rispondere da solo all'enciclopedia. Nella filosofia del diritto, prolissità, ricerca della sottigliezza, cura delle applicazioni più manualistiche giungono a tale rarefazione che un Gioberti, sempre ingeneroso, può permettersi il lusso di lanciare la sua freccia avvelenata, chiamandola un palazzo di astrazione. Eppure, in codesto palazzo, si trova una cosa concretissima, granitica addirittura, come la teoria delle tre società necessarie. Rosmini dimostra per la proprietà dei concetti lo stesso zelo che brucia Manzoni per la proprietà delle parole. Società necessaria la famiglia, società necessaria il corpo politico. Nessuna volta, contro un insegnamento ricorrentissimo anche nei documenti ufficiali del magistero ecclesiastico, si tira in campo la terminologia dei trattatisti che elencano tutta una serie, tutta una carovana di società minori, incluse le confraternite e le misericordie. Merita un rilievo specialissimo la rinuncia di Rosmini a tutto quello che sarebbe stato il discorso della sociologia cattolica, penso in particolare a Toniolo e Sturzo in Italia, sulle società minori, dette anche comunità naturali, o società intermedie. È una rinuncia rivelatrice. In fondo la difesa delle comunità naturali, concepite come sistema di fortezze e di casematte, cito ma non so da chi, per tenere la pubblica autorità sotto tiro, riflette qualche sopravvivenza di feudalesimo. Non c'è solo di mezzo la polemica tocquevilliana contro il centralismo, c'è anche un ostinato attaccamento ai municipi, alle corporazioni, a tutto ciò, insomma, che risvegli contro lo Stato unitarista più che unitario, una superstite aggregazione di contropotere territoriale ovariamente organizzato nel sociale. E voglio ricordare un episodio singolare di cui si è appreso recentemente qualche retroscena. Tutti dovremmo sapere che l'articolo secondo della Costituzione italiana recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo articolo porta la firma di Giorgio Lapide. Giorgio Lapide trepidò dinanzi all'Assemblea, temeva che proprio questa così accurata configurazione di una figura centrale, che è quella appunto dell'uomo come singolo, e di una serie concentrica di formazioni, non meglio definite, anche se su questa parola si lottò moltissimo in commissione, non passasse. Tanto che alla vigilia della votazione si recò all'orecchio, fece le sue devozioni come usava lui, e fu pieno di giubilo quando l'articolo fu approvato. Ebbene, questo articolo contiene esattamente quella che io vorrei chiamare l'ideologia delle società intermedie. Io sono stato a lungo in confidenza con Mortati e so quanto egli stesso tenesse a questo concetto, che ripeto ritorna costante, è uno dei leitmotiv della nostra tradizione polemica contro lo Stato, proprio l'horror statualis contro cui su cronache sociali leggiamo pagine anche importanti di Dossetti. Nel suo versante positivo mirava proprio a creare questo sistema di protezioni, e naturalmente, quando si dice formazioni, la prima cosa che si dice è la famiglia, poi il comune. Del resto basta pensare a tutta la trattazione in Taparelli d'Azeglio delle comunità naturali e in particolare dei comuni. E infatti questo articolo fa anche pendant con l'articolo 29, il quale dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Qui ci fu tutta la questione dell'indissolubile, l'indissolubile non passò, ma c'è agli atti che sì, eliminava quella dizione perché la si riteneva immanente nella stessa nozione di matrimonio, e con questo trucco naturalmente successe quello che successe. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Ora noi sappiamo che malgrado queste solenni statuizioni, la realtà della famiglia italiana ha subito in questo trentennio un'evoluzione che è difficile definire, perché mi pare che a proposito di questa evoluzione si possa dire ciò che Luigi XVIII diceva della rivoluzione francese, che ha fatto tanto bene per poterne dire male. ma anche tanto male, per poterne dire bene. Per rendersi conto delle condizioni in cui versa la famiglia in quei paesi che per non essere islamici o buddisti si chiamano cristiani, a me pare che bisogna in primo luogo rinunciare agli ottimismi delle statistiche. La crisi della famiglia è anche silenziosa. In Italia l'ordinamento familiare tradizionale della famiglia come società naturale non ha resistito alla lenta ma fatale trasformazione della fede cattolica in opinione cattolica. Io non credo al miracolo di un cristianesimo insieme popolare e minoritario. Un'opinione minoritaria nella stessa misura è anche impopolare. In democrazia l'impopolarità contrassegna una fatale perdita di consensi, un arretramento storico. E la crisi della famiglia poi non è neppure così silenziosa. La caduta del tasso di natalità, per riferirmi a una delle tante spie, è un fenomeno impressionante, dietro il quale la coppia nasconde una sorda denuncia, una sostanziale indifferenza quasi suicidaria al suo destino futuro. Una coppia senza figli non è più completa, più sicura, ma soffre proprio nell'intimo di insicurezza. C'è tanto da temere che i due membri siano paralizzati dal rifiuto a volersi reciprocamente come fine, anziché usarsi reciprocamente come mezzo. Conosco dei casi di coppie di intellettuali corazzate contro l'irruzione del terzo, coppie che per qualche decennio hanno fatto consistere la loro aristotelica perfezione ribadendo quotidianamente il principio del terzo escluso. Terzium non dato, e che si sono sbriciolate al primo urto, anzi al primo soffio. Se la coppia celibataria rivendica per sé il futuro dell'umanità, è evidentissimo, e non è neppure un controsenso, che l'umanità non ha futuro. La coppia celibataria, questa così patetica miniaturizzazione dell'uomo come animale in estinzione, penso a Gunther Anders, non nasce dal nulla. Non è una muffa sul ceppo robusto di tante e tante famiglie prolifiche. Non facciamoci illudere dall'id quod plerunque accidit, a parte il fatto che il tasso di natalità, anzi di denatalità, è un trend statistico di tutto rigore. Attraverso la coppia celibataria, la famiglia, questa cosiddetta società naturale, presenta i conti alla società civile, anzi lancia un messaggio le cui cifre sono eloquenti per se stesse, senza bisogno di codice: o mi salvi o sei finita. Questo è il messaggio. La coppia che non si rinnova non sarà soltanto priva di eredi. Non è un semplice evento familiare che così si consuma, ma con essa si estinguono due unità produttive, e non solo questo, ma anche questo, e la fabbrica non saprà come rimpiazzarle. Le scuole elementari chiudono, potrebbero chiudere anche le industrie. Lo spettro della recessione demografica potrebbe persino non fare paura, con il fatale esaurimento della riserva di risorse non rinnovabili, se dietro non ci fosse un mistero. Non si può passare nel corso di due scarse generazioni dalla filogenesi alla fobogenesi, senza che dietro ci sia un mistero. Ed il mistero consiste nel cumulo di minorazioni di cui la coppia è vittima nel momento in cui passa dallo stato di quiete allo stato di moto, cioè di trasmissione della vita. I condizionamenti sono tali, e noi non staremo qui a descriverli, da ferire profondamente l'istituenda società familiare, sulla quale Rosmini insegna, e sto per finire, insegna fondamentalmente questo, che è una società assiocratica. Come una volta si poteva definire aristocratica. C'è l'aristocraticità proprio, non più gentilizia, non più agnatizia, ma morale. Rosmini insiste nel dichiarare, nel dimostrare che i diritti, o più precisamente il valore dei diritti, distinto dalla loro modalità, hanno per ceppo la famiglia. I diritti nascono in famiglia, e del resto basta pensare anche alla nozione comune di patrimonio e togliere a questa nozione ogni riferimento esclusivo ai diritti reali. La famiglia non è soltanto beni, è anche bene. È anche una dignità della persona collettiva, un nome, uno stile di vita, way of life, eccetera. Il valore dei diritti ha questa autentica fonte di produzione, che è la famiglia. E fonte di produzione qui è detto tecnicamente, come lo direbbe Keynes. Ora, la famiglia o si istituisce sin dall'inizio come società assiocratica, al riparo da ogni usurpazione, da ogni interferenza e da ogni ostilità, da parte di quella società successiva e subalterna, e la società politica, o si estingue. Tra le due società il rapporto è all'incirca questo. La famiglia, su quello scenario che è appunto la società religiosa, può vivere senza la società civile, ma non prosperare e perfezionarsi.